Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Oggi a Salva Danaio si parla di affitti, ma non di affitti qualsiasi. Oggi sarà un piacere fare da guida e da supporto a quelle famiglie che stanno pianificando l'organizzazione della vita universitaria dei propri figli. Vita universitaria che in larga parte, per molta parte di questi, si svolgerà fuori dalla propria città d'origine. Il SUNIA, il sindacato inquilini, calcola che un terzo degli studenti universitari si stabiliscono in altre città affrontando la spesa dell'affitto di un posto letto o di una stanza. Abbiamo trovato anche un'altra indagine, quella del portale studenti.it, che racconta che l'affitto incide sul budget delle spese fra il 50 e l'80% per ben il 44% degli universitari fuori sede, mentre per il 31% degli studenti si arriva addirittura a più dell'80%. E allora voi potete ben capire quanto conti questa voce nel bilancio delle famiglie italiane. Oggi parliamo di questo tema per cercare di capire come si possono orientare queste famiglie per fare una buona scelta in un mercato che a volte sembra una vera e propria giungla, perché il nero e l'evasione imperano e quindi anche le famiglie non sanno bene come procedere. Devono cercare un posto letto e pretendere un regolare contratto d'affitto, negoziare fino allo sfinimento, a chi ci si può rivolgere, meglio le strutture organizzate o direttamente ai privati. Allora stamattina risponderemo alle vostre domande all'800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere come sempre alle 349 238 6666 con tre persone che conoscono bene questo fenomeno. Isabella Tulipano, torna con noi il franchising immobiliare Solo Affitti. Tulipano, buongiorno, bentornata a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche ad Eugenia Bernabè dell'associazione Meglio Milano, che ha organizzato il progetto Prendi in casa uno studente. Noi ne avevamo già parlato a Soldi e Dintorni, ma c'è stato molto interesse da parte di molti ascoltatori intorno a questa iniziativa, quindi abbiamo pensato bene di riproporla. Bernabè, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. E io saluto anche Luca Vavassori di Easy Stanza, country manager di Viva Street and Easy Roommate. Poi cercheremo di spiegarla un po' all'italiana, Vavassori, anche se so che voi avete preso questa esperienza proprio da quella anglosassone, da quella americana, l'avete trapiantata in Italia, però poi cercheremo anche di dare delle indicazioni più semplici alle famiglie che ci ascoltano. Buongiorno, benvenuto. Esatto, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho ricordato i numeri per intervenire, allora mi piacerebbe molto sentire l'esperienza di qualche famiglia che sta cercando di individuare le migliori informazioni possibili per portare a studiare il proprio figlio in un'altra città. Chiaramente, dopo aver individuato bene l'università e la facoltà, chiaramente bisogna anche trovare una sistemazione, e qui a volte partono anche delle dolenti note, e di questo parliamo stamattina. Prima la borsa, che stamattina è piuttosto positiva, partita male la giornata in Europa, che ha risentito della chiusura piuttosto negativa di Wall Street ieri sera. Adesso c'è stato un cambio a metà mattinata radicale di direzione. Abbiamo Parigi in salita nel senso positivo, in crescita dell'1,55%, Francoforte più 1,34%, Londra è rimasta un po' indietro da questa mattina, ma guadagna comunque lo 0,9%, Milano, regina della seduta in Europa, sta segnando un più 1,75%. Non ci sono delle motivazioni precise che hanno impresso questa accelerata la seduta in Europa, se non queste indiscrezioni sui buoni risultati degli stress test sulle banche che verranno comunicati domani. Infatti sono proprio tutti i titoli del settore bancario stamattina a crescere molto: Intesa più 3, Monte dei Paschi più 2,72, Banco Popolare più 2,61, Unicredit più 2,49, Popolare di Milano più 2,35, via andare. Prismia nel miglior titolo, guadagna il 3,35%, continuano ancora gli acquisti piuttosto vivaci su Fiat, già ieri più 6%, oggi più 2%, dopo l'annuncio della trimestrale dello spin-off della divisione auto. I segni meno, vediamo un po' se ce ne sono, poco fa non ce n'era neanche nessuno, infatti la tendenza continua ad essere questa. I titoli che guadagnano meno: Terna più 0,32, Snam più 0,4, Autogrill più 0,4%. Euro su dollaro a 1,28,31, andiamo a parlare degli affitti per gli studenti universitari. Canoni da capogiro, pochi contratti regolari e mancanza di alternative. Questi i principali ostacoli che si trovano a fronteggiare ogni anno migliaia di studenti fuori sede alla ricerca di un alloggio. Trovare un posto letto con contratto regolare a un prezzo ragionevole è difatti pressoché impossibile. il numero di posti letto in strutture pubbliche rimane totalmente insoddisfacente se confrontato con i dati degli altri atenei europei e copre solo il 7% delle esigenze. E allora, scartati gli alloggi universitari, non resta che ricorrere alle bacheche contenenti annunci di affitto o ad internet. I prezzi generalmente sono decisamente elevati, con canoni medi che oscillano per una camera da 500 a 650 euro al mese a Roma, mentre a Milano si oscilla tra i 550 e i 650 euro al mese. Affitti cari anche a Venezia, dove si arriva in media anche a 550 euro, mentre a Firenze e Torino si arriva a 500. La nota positiva è che da qualche anno è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 19% della spesa sostenuta, per un importo massimo di 2.633 euro. L'agevolazione fiscale spetta ai genitori per chi è ancora a carico, oppure può essere fatta direttamente sui propri redditi, sempre a patto che si tratti di un contratto registrato. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666. Visto che è la prima volta che interviene a Salvadanaio, comincio la mia chiacchierata con Luca Vavassori, country manager di questa organizzazione che si chiama Viva Street and Easy Roommate, Easy Stanza, diciamola in termini più semplici, e il vostro è proprio un portale che mette a confronto la domanda e l'offerta, soprattutto di abitazioni per gli studenti. Vavassori, 30.000 annunci in Italia ho visto, stanze in affitto, posti letto e coinquilini. È un mercato che veramente io prima ho definito un po' una giungla, quindi è necessario che ci sia un po' di ordine, perché molto spesso tante famiglie iniziano a spostarsi, a organizzare appunto proprio la permanenza dei propri figli per 3 o 4 anni in una città che non conoscono e non sanno proprio, è il caso di dirlo a volte, dove sbattere la testa, Vavassori. Esatto. No, noi con questo sito praticamente cerchiamo di essere un po' il punto di riferimento in Italia per chi cerca una stanza in affitto, un posto letto comunque in una città, in città grandi come, non so, Milano, Roma, Firenze, dove appunto pieno di studenti e la situazione non è proprio chiarissima sul dove andare a sbattere la testa, come dice lei. E noi siamo online praticamente dal 2004 in Italia e stiamo seguendo un modello che abbiamo lanciato nel 99 in America, che ha funzionato col boom di internet, ha funzionato parecchio bene e poi è stato replicato in altri paesi. E appunto dal 2004 siamo online in Italia e possiamo dire che siamo al momento uno dei siti di punta per chi appunto cerca di trovare un alloggio online. Che cosa cercano, Vavassori, le famiglie? Perché è chiaro che cercano la miglior sistemazione possibile per i propri figli, visto che vogliono avere la garanzia che questi si trovino bene in una città, in un posto confortevole, che abbiano un buon rapporto anche con eventualmente il proprietario dell'immobile, ma oltre a questo, in sostanza, insomma, quali sono le richieste da parte e delle famiglie? Ma poi vorrei anche toccare il punto dei proprietari degli immobili, degli appartamenti che vengono dati in affitto, perché c'è già chi segnale, dice, ma insomma voi non sapete quando si dà in affitto una casa a uno studente, non si sa mai quello che può succedere. Vavassori, poi tocchiamo anche questo aspetto. Sì, no, per le famiglie è molto importante innanzitutto la location dell'appartamento. Abbiamo ad esempio a Milano, c'è gente che appunto cerca sempre in zona Bicocca, zona Bocconi, vicino all'università naturalmente. Sì, vicino all'università. E un altro fattore molto importante che spesso si sottovaluta è comunque anche il coinquilino o i coinquilini con cui si andrà ad abitare, nel senso che quello è uno dei punti chiave per una serena coabitazione, nel senso che se tu ti trovi a condividere la casa, il bagno, la cucina con gente che non ti piace o che sono disordinati, fanno casino e tutto, non è il massimo. Appunto Easy Stanza punta molto su questo fattore, nel senso che diamo appunto agli utenti la possibilità di profilare le loro preferenze, le loro caratteristiche, cerchiamo un po' di mettere assieme persone compatibili, diciamo. Certo, infatti stamattina ho dato anche un'occhiata al vostro sito, addirittura ci sono dei ragazzi che cercano delle sistemazioni, che mettono sulla loro foto e naturalmente mettono a volte anche delle condizioni, per esempio io vorrei condividere una stanza magari con una persona che è un non fumatore, che non ha determinate abitudini. Perché? Perché è sempre bene che un rapporto parta all'insegna della miglior chiarezza, della massima trasparenza possibile, così stanno tutti quanti tranquilli. Isabella Tulipano, Solo Affitti, questo franchising ovviamente è un franchising complessivo per il mercato degli affitti in Italia, non guarda solamente, cioè, credo che anche voi prendiate in considerazione il tema degli studenti, solo se per esempio, non so, c'è una casa su Milano da affittare, questa per qualità, per caratteristiche è stata presa in considerazione da una famiglia, ma non avete, come dire, una branca dedicata solamente al ramo studentesco. Diciamo che sì, non c'è una sottospecializzazione in questo senso, però molte delle nostre agenzie che si trovano soprattutto nei posti più frequentati dagli studenti, quindi le agenzie sicuramente nella zona universitaria di Milano, di Roma o quella di Siena, dopo c'è anche una parte di università italiana che si sviluppa in piccoli centri come può essere Macerata, Perugia, queste agenzie diciamo che si occupano anche degli affitti a studenti universitari e ovviamente per loro questo tipo di mercato inizia proprio in questo periodo, è a luglio che le famiglie con i loro figli vanno in queste città per cominciare a visitare gli immobili e capire effettivamente la collocazione più comoda per i propri figli e si cerca in questo caso spesso magari una camera singola in modo che il figlio possa avere maggiore privacy o eventualmente si arriva già con degli amici, quindi persone che decidono di studiare e frequentare la stessa università e di solito per l'esperienza possiamo dire che gli studenti che si conoscono già e prendono in affitto un immobile già insieme avranno un rapporto di locazione continuativo, quindi che durerà di più rispetto a studenti che si conoscono al momento. Allora, quali sono le formule di affitto più diffuse in questo campo, Tulipano? Perché da quello che capisco, così un po' documentandoci anche sulla materia, sappiamo che teoricamente i canoni di locazione sono definiti sulla base di accordi locali e teoricamente dovrebbero essere anche inferiori ai prezzi del mercato immobiliare, però in realtà è anche vero che insomma nelle città universitarie si racconta qualcosa di diverso, cioè che per esempio molti proprietari si approfittano di questo e mettono anche sì sul mercato delle stanze magari facendole pagare, soprattutto se si trovano vicino alle sedi universitarie, dei prezzi folli. Insomma, è un mercato che ha delle regole chiare? È un mercato che comincia ad avere delle regole chiare. Ecco, mettiamola così. Diciamo, sì, perché appunto quello di cui lei parlava è il contratto per studenti universitari fuori sede, che è un contratto particolare all'interno del quale appunto il canone non è un canone libero, ma è un canone che deve rispettare quelle che sono le fasce di oscillazione decise dagli accordi territoriali. E in questo caso quindi parliamo di canoni che sono un po' più bassi rispetto al mercato libero, però d'altra parte diciamo che i proprietari a fronte di questo tipo di contratto hanno delle agevolazioni fiscali notevoli, perché parliamo di una deduzione sul reddito della locazione che è del 40,5% rispetto al 15% che solitamente viene applicato. Parliamo di agevolazioni sulle imposte di registro, in questo caso parliamo del 2%, l'imposta di registro si paga il 2% sul 70% del canone annuo invece che sul 100%, e soprattutto molte città per agevolare l'utilizzo di questo tipo di contratto applicano un ICI molto più bassa rispetto alla quota normale e addirittura in città, per esempio Bologna, per chi affitta con un contratto a canone concordato non si paga l'ICI. Quindi diciamo che le città cercano di incentivare, i comuni cercano di incentivare l'utilizzo di questa formula prospettando ai proprietari sempre delle agevolazioni fiscali sempre maggiori e quindi magari uno accetta di percepire un canone più basso, però d'altra parte sa che pagherà meno tasse. Allora, io sì, Tulipano, mi devo fermare perché ho già la prima pausa, non ho ancora sentito Eugenia Bernabei, che rimando a questo punto fra qualche minuto nella seconda parte di Salvadanaio, perché il progetto Prendi casa uno studente è molto bello, molto interessante, non c'è solo a Milano, ce ne sono anche altre iniziative del genere in tutta Italia, questo pure può costituire secondo me un buono spunto per molte famiglie che adesso sono a caccia di sistemazione per i figli in procinto di andare a studiare fuori città. Allora, oggi parliamo di affitti, ma soprattutto degli affitti per gli studenti universitari, quelli che si stanno spostando, stanno raggiungendo altre città, si stanno spostando dalla propria città d'origine per raggiungere la città universitaria per scelta per fare il proprio percorso di studio e qua naturalmente famiglie attivissime in questi giorni, in queste settimane per cercare la miglior sistemazione possibile per i propri ragazzi. E allora come si fa a cercare un buon alloggio a prezzi ragionevoli con contratti d'affitto regolari in un mercato che abbiamo definito prima in certe città è una vera e propria giungla, perché il nero e l'evasione imperano e quindi a volte anche le famiglie non sanno bene come procedere, perché a volte ci si sposta anche su suggerimento di amici, perché su quella città c'è una persona che si conosce, magari insomma si prende la prima sistemazione che si ha a disposizione e qualche volta non si fa una buona scelta. Allora, stamattina abbiamo tre esperti, poi ve li ripresento, però sentirei anche subito il caso di Graziella da Padova, che insomma Graziella ha affittato qualche volta anche Padova, una città universitaria molto molto frequentata. Buongiorno, no, io non ho mai affittato, il problema è questo, proprio abitando a Padova, centro storico, in un condominio dove ci sono piccole unità e quindi molto ambite dagli studenti. Il problema è che noi che abitiamo normalmente spesso siamo in conflitto con questi ragazzi perché tendono a non rispettare le regole, non si sa mai bene quanti siano, quindi credo che il problema fondamentale sia che tipo di contratto è obbligatorio, cioè se ogni studente deve avere un contratto con il suo locatore, oppure se basta che uno faccia il contratto e poi subaffitta. Si creano delle situazioni veramente di conflittualità, non rispettano le regole condominiali, quindi non rispettano la correttezza dei comportamenti, gli orari. Certo, ecco, no, grazie a lei. Questo è il problema, per questo ho chiamato. La ringrazio, io la capisco, è anche vero che il periodo universitario è unico e irripetibile e stando lontani da mamma e papà magari in quel periodo si coglie l'occasione un po' per divertirsi e mi rendo conto che però qualche volta si perde un po' il controllo della situazione. Detto questo, Eugenia Bernabei dell'Associazione Meglio Milano, che segue il progetto Prendi in casa uno studente, diciamo che con il vostro progetto queste situazioni come quella denunciata da Graziella non si verificano, perché ad ogni abitazione di proprietà di una persona con una certa età corrisponde un solo studente universitario che mediamente non può invitare tante persone a casa, quindi diciamo il rapporto di convivenza è un po' più tranquillo teoricamente o anche praticamente. Bernabei. Anche praticamente, certo. Direi. Sì, effettivamente allora il progetto prevede la convivenza in casa dell'anziano, anche se i nostri anziani, noi preferiamo chiamarli pensionati o giovani pensionati, perché abbiamo anche pensionati cinquantenni che partecipano al progetto, appunto vede la convivenza tra anziani e studenti universitari nella casa, lo studente ha una stanza singola e rispetta il vivere all'interno di una famiglia. Una famiglia che diciamo ricostruita dall'associazione, che abbina su caratteristiche personali, preferenze, anche gusti simili, quindi gli amanti degli animali che non hanno allergie vengono abbinati con anziani che hanno il gatto, il cane, quindi questo è sicuramente un punto che noi teniamo molto a sottolineare, perché l'abbinamento è fatto uno a uno. Certo, perché la vostra iniziativa ha uno spirito ben preciso. Tornando però magari Bernabei alle questioni che interessano le nostre famiglie, intanto per esempio a quanto si può affittare una stanza passando attraverso di voi? Gli anziani non affittano ma ricevono un rimborso spese. Questo è importante, perché prima parlavate di detrazioni, deduzioni, ecco, questo sul nostro contratto non è applicabile, perché il rimborso spese è esentasse. Però fate un regolare contratto. Viene fatto un regolare contratto, certamente, che è stato validato dall'Agenzia delle Entrate, quindi sicuramente c'è la cosa legale, assolutamente non è in nero, diciamo. Però un rimborso spese sulle spese di luce, acqua, gas, riscaldamento, in parte concorrono alle spese condominiali, ed è a Milano, che è una città abbastanza cara sotto questo profilo, tra i 250 e i 280 euro, e viene calcolato proprio in base all'abitazione. Quindi abbiamo un risparmio nell'affitto per lo studente, esatto, in dubbio. Non viene proprio corrisposto l'affitto, e appunto concorre alle spese. Un aiuto per l'anziano, certo. Esatto. Come si mette insieme la domanda e l'offerta nell'ambito di questo vostro progetto? Perché io immagino che appunto bisognerà sperimentare anche la compatibilità fra le persone che andranno ad abitare insieme. So che li fate incontrare prima. Allora, prima li incontriamo noi singolarmente e raccogliamo quelle che sono i desiderata, poi li facciamo incontrare presso l'abitazione di chi ospita, in modo che piaccia anche l'alloggio oltre che la persona, e l'incontro dura mediamente un'ora e mezza, perché qui proprio si confrontano, si decidono se si piacciono o meno. Ci pensano qualche giorno e poi ci danno il loro responso, perché è proprio una questione a pelle. Quando due persone, secondo me, sulla carta sono abbinabili, devono poi piacersi loro, perché vivranno loro. Il nostro contratto prevede un periodo di prova di un mese, in cui, insomma, se proprio due persone non vanno d'accordo in un mese, emerge, e dopodiché dura l'anno accademico, si rinnova di anno in anno. Vi sono mai capitati, Bernabei, casi di incompatibilità totale? Totale no, però nel tempo in convivenze che durano 11 mesi è capitato. Noi su 310 contratti avviati ne abbiamo interrotti 6. Beh, comunque insomma una percentuale che potrei definire sicuramente fisiologica. Però tornando al caso denunciato dalla nostra, al caso, insomma, la situazione che può anche essere piuttosto diffusa, denunciata dalla nostra ascoltatrice di Padova, vorrei sentire Luca Vavassori, perché appunto ritornando un po' a quello che dicevo prima, ho visto il sito, pubblicate anche le foto delle abitazioni dove presumibilmente uno studente potrebbe andare ad abitare o comunque messa a disposizione di un proprietario. E, insomma, questi problemi ci sono. Qualora poi fossero denunciati, in sostanza, voi che cosa fate? Interrompete per esempio anche la pubblicità della propria offerta sul vostro sito? Come tenete sotto controllo problemi anche di questo tipo, che sono indubbiamente diffusi e che ovviamente alimentano anche le perplessità di proprietari che potrebbero mettere sul mercato le loro abitazioni anche a prezzi ragionevoli, ma poi non lo fanno perché proprio della componente studenti non si fidano? Sì, noi in genere ogni tanto riceviamo sulla nostra email, appunto, di customer service, riceviamo delle lamentele da parte di locatori che appunto incontrano situazioni simili, e purtroppo a questo livello, cioè, il massimo che possiamo fare è controllare, insomma, gli annunci che gli utenti inseriscono, e più di quello, cioè, non possiamo fare, nel senso che se ci sono, non so, annunci discriminatori oppure annunci di persone che cercano, anziché un coinquilino, cercano una ragazza, cosa che purtroppo capita spesso, e abbiamo fenomeni di stalking piuttosto comuni a volte. Quello che possiamo fare è appunto rimuovere gli annunci, ma, cioè, se ci segnalano cose del tipo guarda, questo utente torna alle 4 di notte e certo, fa un baccano, non possiamo farci questo, mettiamoci a volte in testa che è un problema di buonsenso, un problema di educazione, e ci si può far poco. Però, insomma, io mi rivolgo anche ai ragazzi, perché sono sicura che molti ci ascoltano, abbiate anche rispetto, in sostanza, delle persone che abitano vicino a voi, sotto di voi, insomma, non è che si possa sempre essere selvaggi, anche se si vuole godere appieno di questo periodo della propria vita che è molto divertente, molto entusiasmante, eccitante, senz'altro, però bisogna anche avere rispetto dei nostri vicini. Sentirei allora Lorenzo da Vicenza. Mi aspetti un attimo perché abbiamo in linea Silvio da Milano, che è il presidente provinciale, se non ho capito male, di un'associazione di piccoli proprietari immobiliari. Silvio, buongiorno, e voleva darci il suo contributo alla discussione di stamattina. Ma volentieri, se posso, buongiorno. Ma ci mancherebbe altro, benvenuto. Io sono, sì, presidente dell'Associazione Sindacale di Proprietà Immobiliari della provincia di Milano. Parlo naturalmente della mia realtà, della realtà di Milano, che peraltro è abbastanza importante. Insomma, quando è una città che vive nel mondo universitario, insomma, è pieno fermento sempre. Esatto, è vero, è verissimo, ed è increscioso il fenomeno del nero, dei contratti anche, diciamo, messi giù un po' così, come viene. La realtà è che esiste anche non un vuoto normativo, ma una mancanza di regolamentazione reale. Per esempio, mi riferisco all'accordo locale, perché se è vero come è vero che la legge 431-98, articolo 5, non voglio essere troppo tecnico, però il concetto è, c'è una domanda agli accordi territoriali, è anche vero che poi gli accordi territoriali bisogna anche farli. E Milano purtroppo l'accordo territoriale l'ha fatto nel 99 e poi non l'ha più rivisto, il che vuol dire che quando abbiamo un contratto di locazione per una stanza che prevede un canone di un immobile che è dell'80%, quando va bene, inferiore al canone di mercato, è chiaro che l'appetibilità sul mercato di questo tipo di contratto è molto e quindi Silvio, mi scusi, quando per esempio un proprietario associato magari alla vostra organizzazione vi viene a chiedere consiglio per affittare la propria casa proprio agli studenti, anche perché molto spesso per certi aspetti secondo me sono contratti più convenienti rispetto ad altri, magari affittare ad una famiglia con bimbi piccoli non permette per esempio di liberare l'immobile in un determinato numero di anni, perché è un po' più complicato. Quella della liberazione, esatto, del rilascio è un altro problema. Quindi che tipo di contratti suggerite di fare ai vostri associati, la se vogliono gli studenti? È sempre quella, lo studente, se vogliono mettere lo studente, vogliono metterlo in regola come dovrebbe essere, l'unica possibilità è appunto fare un contratto, articolo 5 della legge 431, per cui un contratto secondo l'accordo locale con un canone molto modesto. C'è sì, evidentemente, come ricordavate, un forte risparmio fiscale, ma un risparmio fiscale che in realtà di fronte al reddito che viene percepito è comunque pochissima cosa. Pertanto quello che bisogna fare poi è disincentivare la proprietà dal ricorso a contratti extra legem, insomma, contra legem. Già se ci sono qualcosa, perché qualche volta, insomma, lì invece non ci sono neanche quelli, quindi anche questo va detto. Sì, giustissimo, per carità. Diciamo che mentre per esempio Bologna, forse anche Padova, ha degli accordi locali buoni da questo punto di vista, per cui è più facile creare un segmento di mercato valido, a Milano questo è molto difficile, Milano è provincia di Milano. E questo è il punto. Poi dopodiché ovviamente il ricorso a bed and breakfast piuttosto che affittacamere, come previsto dalla legge, con tutte quelle che sono le caratteristiche dell'affittacamere, è possibile, ma è molto più complicato e spesso e volentieri, per tutta una serie di motivi, di meccanismi anche che complicano le cose, è difficile ricorrervi. Grazie Silvio per il suo contributo di questa mattina. Adesso, tra un po', peraltro, siccome avevo anche invitato le famiglie a chiamarci, perché mi piacerebbe proprio capire come si orientano, come si muovono, che tipo di percorso stanno intraprendendo, appunto, proprio per portare il proprio figlio nella città universitaria scelta per i prossimi 3-4 anni. Lorenzo da Vicenza, siamo da lei, buongiorno. Allora, buongiorno. Suo figlio dove studia? Mio figlio è a Ferrara, studia a Ferrara. Benissimo. E niente, volevo dire dalla mia esperienza, quando siamo andati a visitare questi appartamenti, uno era troppo lontano, l'altro costava troppo e a un certo punto abbiamo trovato un compromesso con un appartamento abbastanza datato, però sembrava tutto ok. Poi invece col passare del tempo che mio figlio ha vissuto in questo appartamento, sono venuti fuori i problemi, tipo l'impianto elettrico con le prese che si staccano dal muro, la caldaia che non ha il libretto di controlli periodici, eccetera. Lorenzo, come aveva trovato questo appartamento? Con un banale passaparola, si era rivolto ad un canale? Con i foglietti appesi all'università, bravissima, le bacheche. Sì, infatti sì. Anche lì volevo arrivare, certo. È la prima cosa che si fa naturalmente, sì, uno va all'università, sì, si iscrive. Il problema è stato più che altro perché noi lo scorso anno quando ci siamo rivolti lì è stato fatto un discorso all'ultimo momento e quindi le agenzie avevano già piazzato tutto, certo. Era molto difficile trovare, quindi ci siamo dovuti adattare anche per un gioco forza nelle cose. La tinteggiatura, per dire, abbiamo chiesto di poter fare noi a spese nostre e il titolare ci ha detto no perché è forza di colore, poi si scrosta. Lorenzo, io non ho usato a caso prima il termine giungla, perché lo è veramente, non solo per quello che riguarda le modalità con cui poi gli affitti vengono percepiti dai proprietari eccetera, poi ci sono anche queste situazioni. Quindi adesso suo figlio sta ancora lì, Lorenzo, oppure vi state così un po' guardando intorno per cercare un'altra sistemazione? Il problema diventa che chi ci vive dentro deve avere perlomeno l'impianto elettrico e l'impianto della caldaia a norma, non c'è neanche il termostato ambiente, quindi figuriamoci. Guardi, io intanto le posso suggerire di andare a vedere su EasyStanza e asistanza.it. Luca Vavassori, qualche annuncio su Ferrara lo troverà, Lorenzo, magari vuol cambiare casa. Più o meno 150 su Ferrara. Benissimo, quindi intanto un primo passo che può fare è vedere se c'è qualcosa di meglio sul mercato, sicuramente una casa migliore. Cosa ne pensa di questo caso che ha sentito Vavassori? Insomma, voi per esempio fate sugli annunci che accettate sul vostro sito anche un piccolo monitoraggio qualitativo delle abitazioni che vengono messe sul mercato per gli studenti? Facciamo un monitoraggio a livello dell'annuncio, quello che dicono lo prendiamo un po' per scontato, nel senso che non possiamo ovviamente fare delle ispezioni, non siete dei periti. Con 1500 però ecco, quantomeno i requisiti. Ma io ho visto che esteticamente sono tutte molto belle quelle che sono nell'home page, però è chiaro che qua sì, in genere, cioè di lamentele non ne riceviamo molte, però ci sono appunto alcuni annunci civetta che purtroppo qualche volta sfuggono anche al vostro controllo. Isabella Tulipano, volevo chiedere anche a lei per quello che riguarda solo affitti un commento rispetto a quello che abbiamo sentito e certo anche la qualità degli immobili, proprio per il fatto che sono a volte delle sistemazioni assolutamente provvisorie e transitorie, qualche proprietario, qualche elemento di base della sicurezza sfugge purtroppo. Certo, è vero insomma che i nostri agenti di solito visitano personalmente gli immobili e quindi cercano di non mettere negli annunci immobili che effettivamente non hanno un minimo di condizioni, quindi va bene insomma l'immobile non nuovissimo ma sicuramente con l'impianto messo a norma, questi sono i requisiti minimi che chiediamo. Volevo il minimo sindacale, sì. Due cose rispetto a quello diceva la signora di Padova, per esempio, la subloccazione, ecco, nel momento in cui per esempio si fa un contratto regolare, di solito la subloccazione è proibita. Esatto, proprio per evitare insomma il fatto che poi uno si affitti a due studenti e ne entrino poi i 10 o ci si ritrova magari con non gli stessi studenti a cui si era fatto firmare il contratto. E l'altra cosa invece è che effettivamente Milano per gli accordi territoriali purtroppo non sono mai stati rinnovati e sono fuori mercato e lì la possibilità che hanno loro è semplicemente di stipulare dei contratti a questo punto di 4+4 a canone libero, dove si sa bene che il contratto non durerà 4 anni perché gli studenti solitamente rimangono molto meno tempo. Insomma, ci sono diverse pressioni perché anche a Milano in qualche modo le associazioni di categoria possano rifermarsi per riformulare questi accordi, visto che in città come Roma, dove più o meno diciamo a livello di mercato i canoni sono dello stesso livello di Milano, gli accordi ci sono e vengono utilizzati. E poi insomma ci si lamenta sempre perché c'è il nero, l'evasione su tutto, poi ecco scopriamo, come denunciava il nostro ascoltatore di prima, vuoti normativi clamorosi su certi aspetti, insomma le nostre città sono ad appannaggio degli studenti in molti casi, ci sono proprio città universitarie che vivono di questo, mi riferisco appunto a Milano, Bologna, Roma, ma tante altre, quindi non si capisce perché questo settore non debba essere disciplinato completamente correttamente. Eugenia Bernabei di Prendi in casa uno studente, le volevo leggere un messaggio di un ascoltatore che scrive: e secondo te un ragazzo va a studiare fuori e va ad abitare con un anziano poverino, che vita dai, già devi studiare? Allora ribadiamo un po' il criterio della vostra iniziativa, perché qua non è che si tratta di assumere un badante che va a prendersi cura di un anziano. L'anziano a volte è molto più attivo, molto più giovanile del giovane, esatto, che va ad abitare con lui, ecco, infatti. No, allora sicuramente ci sono anziani che chiedono uno studente perché si sentono soli, sono una minoranza, la maggior parte sono invece anziani giovani che non vedono perché non utilizzare la stanza del figlio lasciata vuota, dando un'ospitalità. Alcuni sono mossi anche proprio da un criterio di accoglienza, e quindi ci dicono addirittura che non vogliono il rimborso. Poi noi per correttezza in realtà il rimborso lo facciamo sempre versare, però ci sono anche queste situazioni. Diciamo che a volte sono proprio gli anziani che tirano fuori i ragazzi, perché i ragazzi che si avvicinano al nostro progetto si autoselezionano, cioè loro hanno un po' paura di una città grande come Milano e preferiscono avere una porta d'ingresso, in questo caso un anziano, diciamo un pensionato, che conosce la città, che li può guidare, li aiuta. È più rassicurante. Esatto, eh. E poi sono studenti meritevoli, nel senso che sono studenti che sono a Milano per studiare, quindi ci dicono: io voglio un luogo tranquillo per studiare, se è devo quello andare che volevo, a far casino, infatti, non vado a far da un'altra parte. Volevo arrivare proprio a questo punto, perché adesso io chiaramente prima ho definito il periodo del percorso universitario, ovviamente quello dal quale ci si affranca forse per la prima volta in maniera importante dai genitori, dalla famiglia, e quindi è chiaro che lo si vuole vivere pienamente, ma c'è anche chi vuole sbrigarsi a studiare e chiudere rapidamente questo periodo e quindi vuole studiare, non gli interessa fare l'aperitivo tutte le sere, andare a dormire alle 4 del mattino, per cui cerca proprio l'ambiente e il clima più adatto, e quindi questa è sicuramente la soluzione ideale. Bernabei, siete solo a Milano o ci sono organizzazioni di questo tipo anche in altre città italiane? E soprattutto come vi si può trovare? Ecco, allora Meglio Milano opera soltanto a Milano con Prendi in casa uno studente, ma il progetto è gemmato in altre città con nomi differenti, cioè c'è a Torino, c'è a Padova, c'è a Udine, a Firenze, Roma, Bologna, cioè in realtà il progetto è diffuso a livello nazionale, anche a Lugano aprirà e c'è anche all'estero, quindi il progetto è molto, molto diffuso. Meglio Milano può essere contattata telefonicamente allo 02 76 02 0589, sia per candidarsi come ospitante che come ospitato, oppure sul nostro sito internet www.meglio.milano.it. Anche per le altre città, chi ci vuole informazione ci può chiamare e noi smisterete eventualmente la richiesta. Benissimo, sì, perché a volte sono associazioni, a volte fondazioni, non so infatti cosa sorgono. Io sono pronta a scommettere 1 milione di euro che Marco da Padova è uno studente. Pronto? Sì, salve. No, io purtroppo non sono ancora studente perché non me lo posso ancora permettere. Perché Marco? È giovanissimo. Perché attualmente comunque sto lavorando, quindi... Però magari l'anno prossimo cercherò di darmi un po' più da fare con gli studi. Bravo. Volevo comunque ricollegarmi al discorso della signora di Padova. Perché? Quella che abita in centro. Si lamentava del fatto che i ragazzi che abitano comunque in condominio con lei fanno schiamazzi, non rispettano gli orari. Io volevo dire una cosa, praticamente... A parte il fatto che i prezzi delle case di Padova, che sia un appartamento, che sia 2 metri quadri, sono esorbitanti, un ragazzo che lavora e studia è difficile che se li possa permettere, comunque è aiutato dai genitori o insomma da terzi. E questa è una cosa rilevante, perché non è possibile perché per 2 metri quadri di distanza lo si paga 300 euro. Conosco piuttosto bene la realtà di Milano, quindi... Capisce. E poi un'altra cosa, il fatto degli orari, cioè... Io so com'è la realtà di Padova. Alle 11:30 la vita, non dico notturna, la vita serale a Padova è finita. A Padova non c'è niente, i giovani non si possono divertire più di tanto. Ci sono le discoteche, però certo, discoteche non è... Però Marco, sai che cosa? Guardi, ti do del tu, perché secondo me avrai 20 anni a malapena. Il problema di Graziella era che lei comunque non è una persona che affitta, che magari qualche, come dire, tolleranza in più rispetto a certe situazioni la può avere. È una persona che abita in un appartamento vicino e quindi tu capisci per quale motivo deve subire anche situazioni di... Magari senz'altro persone che abitano in 4 e improvvisamente si ritrovano in 14 in quell'abitazione, fanno senz'altro, ma ci sono ovviamente i casi sporadici di raggruppamenti, però non sono questi i veri problemi. Cioè, è normale che i giovani si debbano divertire, soprattutto in una città universitaria. Marco, qua e come se dire, non dovremmo ci sono servizi esterni, se alle 11 i bar chiudono, Va bene, va bene. Abbiamo capito anche le tue le ragioni dei ragazzi. Sono stata contenta di aver colto anche la tua ragionevolissima considerazione, Marco. In ogni caso, per tutte le famiglie che devono cercare una casa per il figlio che va a studiare fuori città, ci sono tanti canali istituzionali. Noi stamattina abbiamo presentato sull'affitti, ma insomma ce ne sono altri. Il progetto Prendi in casa uno studente, Esistanza, e quindi i canali ci sono. Magari proprio prima di prendere il primo annuncio sulla bacheca dell'università che vi costringerà ad una trattativa con un proprietario che vi vuol far pagare in nero quella stanza, magari comunque un prezzo esorbitante e le condizioni di quella casa non sono neanche ottimali, pensateci un attimino. E magari qualche volta penso che è sempre meglio pagare un intermediario, ma farsi fare un contratto assolutamente regolare per poi poterlo contestare anche meglio. Grazie ad Isabella Tulipano, Eugenia Bernabei e Luca Vavassori per essere stati con noi, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Roberto Scaltritti per la regia questa mattina. Ritorniamo domani, buona giornata.